sul meridiano di pane, burro e rock and roll. Sono le 8 spaccate. Da quest'oggi fino a venerdì vi sveglieremo così. Ah, continua con i musical, eh? Time Warp. It's astounding. Senti qua. Time is fleeting. Alla so tutta. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Just a jump to the left. And then a step to the right. With your hands on your hips. You can't see me. No, not at all. In another dimension. With your realistic intention. Well secluded. I see all. With a bit of a mind flip. You're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're spaced out of sensation. Sulle mani, tutti, anche voi in macchina! La sapete la coreografia? Time Warp Again. Allora, Rocky Horror Picture Show, i fedeli lo sanno, dalla nuova stagione di Pane, Burro e Rock and Roll alle 8 precise li svegliamo con un brano. Ho un forte dubbio e chiederei aiuto agli amici là fuori, come faccio sempre quando ho dei dubbi, perché se li chiedo alla redazione qui succede il pandemonio. Non so se programmare sempre il time, cioè abbiamo 5 puntate da lunedì al venerdì. Non so se svegliarvi sempre col Time Warp o gustarci un po' il Rocky Horror Picture Show in generale. Anche perché, per chi lo conosce, secondo me è carino perché ti ridiverti a risentirne 5 diverse. Per chi non lo conosce, è un modo in più per sentire anche le altre canzoni. Il Time Warp è sicuramente il brano più famoso di questa colonna sonora, di questo musical, poi diventato anche un film. Fatemelo sapere al 335-100-7777. Siamo curiosi di sapere se volete sentirvelo tutto o solo quello. Inizia la seconda ora di Pane, Burro e Rock and Roll. Bentornati, bentrovati a chi si fosse sintonizzato solo adesso. Teniamo duro ancora un'altra ora. Mi chiedono di rifare gli auguri alla piccola Vittoria, che quest'oggi compie 4 anni. Vittoria, sia Mister Trombetta che la mucca Camilla si complimenta. Ciao Vittoria! Ciao ciao ciao ciao ciao ciao! Sì, è la radio che ti parla! Ciao Vittoria! Facevo i versi un po' così. Un po' da stupidino. Allora, prepariamoci per i compleanni di quest'oggi. Intanto, se so la coreografia, tutti i venerdì andavo in via Savona, non ti dico altro. No, c'era uno che chiedeva per un gruppo d'ascolto, fatemelo ritrovare. Eccolo qui, Datino, che mi dice, allora ti dobbiamo ringraziare anche per Mox, vabbè, allora grazie. Come si fa a fare il gruppo d'ascolto dei tassisti milanesi? Siamo certamente in tanti. Datino, l'hai appena fatto. Qui a Pane, Burro e Rock and Roll le cose sono più semplici di quanto si possa credere. Basta autodefinirsi gruppo d'ascolto e les jeux sont faits, come direbbero i francesi. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a quelli che li compiono il 24 settembre, tanti auguri a voi. Due grandi voci sulle frequenze di Rock FM, messi a contratto anche perché due cantanti di un certo talento. Mi sto riferendo a me stesso, il DJ Ariele, ma soprattutto al cantante degli Schiantos, Roberto Fricantoni. Buona giornata, come sempre. Buona giornata. Perché si cantava tanti auguri a te? Perché... Ma lo sanno ormai. Perché compleanni si del sta... giorno. Avvicinando la zona compleanni. Lei sa che in un programma radiofonico, quando non si sa cosa fare, si fanno i compleanni del giorno. Non vedo perché noi di Pane, Burro e Rock and Roll dobbiamo rinunciare a questo classico della radiofonia. Compleanni infatti, del giorno. Infatti, nati quest'oggi 24 settembre. No, guarda che figo, nasceva nel 1724 Sir Arthur Guinness, birraio irlandese. È lui o non è lui? Certo che è lui, rubando un tormentone ad un altro comico medio. Nel senso che noi ne abbiamo di meglio. però, infatti esatto, rispetto a noi, rispetto a noi c'entrava, dire... che è quello che ha inventato la Guinness, la birra Guinness, quella la scura, grande birra Guinness, chiara, rossa, scura, butta giù senza paura, pura. Ricordati che muori se bevi l'acqua pura. Punk Varesotto, bellissima filastrocca Punk Varesotto. Senta, questo Guinness, lei stessa del record, esatto, è lo nel stesso senso medesimo che il nostro impagabile Isacco della redazione, impagabile impagato, lo stagista ci impagato ci fa notare che il libro dei Guinness si chiama così perché Guinness fu il primo sponsor, esatto, il primo sponsor, la birra Guinness. Sai cosa mi viene in mente? Sì. Il Palatrussardi a Milano, sì, un po' si chiama Palatrussardi, un po' si chiama Palamazza, un po' si chiama Palatacker, in base prossimamente Palaschiantos, prossimamente Palaschiantos. Uh-huh. Mi hanno detto che stava pensando a un investimento, ma non sì credevo così alla grande. Passiamo, sì, ma è prossimo l'investimento. Passerei alla prossima compleante, che nasceva quest'oggi nel 1941, la moglie, la ex moglie di Paul McCartney, Linda sì, McCartney. Sì, l'altra metà del cielo di Paul, Macca, cantante e attivista americana, Linda McCartney, sì, che morirà nel 1998, ricordata in eterno per la frase: se i macelli avessero le pareti di vetro, tutto il mondo sarebbe vegetariano, e forse non aveva tutti i torti. Le perle di saggezza tutte inscatolate nel cranio di Fricantoni, e passiamo, chiudiamo in bellezza con sì due perle, con due bellissime bellezza donne. Nasceva il 24 settembre del 74 Alessia Merz, modella italiana, e nel 1985 chi nasceva? Jessica Sweet, la dolce Jessica, la fuori qualcuno, o meglio qualcuna dirà chissà chi è la classe classica porno diva con la quale chiudiamo i nostri compleanni. Non... Sweet, sì, dolce di nome e di fatto. Probabilmente. Jessica, come sei dolce. Datemi a casa, quanto vi piacerebbe tornare a casa a questo momento, vi conosco, mascherine là fuori, invece inizia una nuova settimana, fortuna che c'è pane, burro e rock and roll in diretta fino alle 9, sempre con l'Ariele, Fricantoni e Spadino. Tantissimi messaggi riguardanti il Rocky Horror Picture Show, è un tripudio, direi che prima cosa l'avete presa benissimo e mi fa bene, nel senso che sapevo che avrei colpito certe orecchie di certi radioascoltatori proponendo il Rocky Horror Picture Show, direi è un tripudio, volete sentirlo tutto, quindi da oggi a venerdì passeremo altre tracce, sempre alle 8 precise, del Rocky Horror Picture Show. Tanti commenti, dicevo, ma parto da un amico fiorentino, si firma Mare da Firenze, mi scrive: Ariele, le cose sono due, o sono io che sono di fuori e ho le visioni, o quel moretto con i capelli altezza spalla vicino a Dome la Muerte al Charlotte non eri tu. No, effettivamente non ho i capelli altezza spalla, quindi probabilmente non ero io, ma io c'ero, mi sarò assentato pochissimi secondi, il tempo di andare un attimo alla toilette, non di più, quindi guarda, sarò lì anche il prossimo venerdì, torna a trovarmi. Viva i lampioni crepuscolari e il Rocky Horror. Silvia, ballando il Time War, commenta: gli altri autisti penseranno che sono pazza, e fanno anche bene, aggiungo io. Che inizio di settimana, dopo questa canzone sono pronto, Sam da Firenze. Un saluto anche al generale, a Bert, invece, che cita il Rocky Horror Picture Show. A Dana: inizio giornata fantastico con il Rocky Horror, tra teatro, film, rivisto mille volte, direi assolutamente tutto. E firma Taccia Taccia, Taccia Touch Me. Mitico Time Warp e mitico l'Ariele, ho alzato la radio a palla, così questa settimana si svegliano anche i miei vicini. E vai anche di balletto, Jeska. Bravi ragazzi. L'ultimo, se no vado troppo lungo. Distinto uomo di mezza età fa jogging sulla promenade genovese con annesso air guitar in cuffia, ovviamente pane, burro e rock and roll. Faccio la figura dello scemo? Si chiede Marco Ondo. Potrebbe anche essere, ma che me ne fotta moi? Come dicevamo in una vecchia trasmissione. Devo leggere anche questa, Spadino, poi andiamo col brano, hai ragione anche tu, ma questa la devo salutare. Miki: ciao Ariele, ieri mi hanno cacciata da una chiesa durante un battesimo perché avevo le spalle scoperte. All'inizio ci sono rimasta male, ma poi ho pensato: molto rock, che ne dici? Guarda Miki che hai trovato la chiave di lettura. A noi non ci scalfige niente, nessuno. perché siamo molto rock. Io così a inizio settimana, devo confessarlo, non sto nella pelle, finalmente, forse avremo la nostra patente davvero rocker, se ve lo siete meritati, se avete cumulato i punti bastanti per averla. Quanti erano? Ma tantissimi, ad ogni modo DJ Ariel... Sì. La prego, sia più generoso. Perché lei sa, abbiamo visto la redazione particolarmente indaffarata, sì. Lei sa che ci sono dei prototipi, dei modelli, sì. È già quasi pronta. Degli esperimenti. La patente davvero rocker c'è, esiste! Esatto, esatto. E voi come San Tommaso che dovete beccarci, che dovete infilarci dentro il ditino? Volendo potrete farlo. Sì, voi che volete verificare, avrete pane per i vostri domenica, denti. Domenica, domenica, ma intanto alleniamoci. Sì. Andiamo avanti con i test attitudinali. Ho già confessato ai nostri amici che le domande che faremo pubblicamente saranno quelle già andate in onda. Quindi uno che ha ascoltato le puntate di Pane, Burro e Rock'n'Roll già sa. È avvantaggiato. Sa di cosa parliamo quest'oggi? È avvantaggiato. Di che cosa parla il test attitudinale di quest'oggi? Parliamo di un sondaggio fatto dalla rivista Q. Bel nome, tra l'altro. Q. Esatto, forse è meglio. Il sondaggio per decretare la canzone più inglese di tutti i tempi. Più British. Esatto, più British. Per la serie... Che sondaggio facciamo oggi? La canzone più British. Complimenti agli amici di Q. Interpellano una schiera di critici appassionati ben selezionati. E voi là fuori saprete dirci qual è la canzone che è stata ritenuta un esempio sonoro di cosa significhi essere britannici. Ed ecco, come al solito, le tre ipotesi proposte da Pane, Burro e Rock'n'Roll. Soluzione A. Born in the USA di Bruce Springsteen. Ma soluzione, la faccio British, B. God Save the Queen dei Sex Pistols. Soluzione C, nel senso di C, non nel senso di sì. C. Terza e ultima proposta, infatti, è Day in the Life dei Beatles. Quale di queste tre canzoni è stata eletta la canzone più British? La risposta, come al solito, a dopo. La soluzione ve la diamo tra poco.